Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Olga. Siete su Van Loon e siete sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Questa è la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Oggi sono sola a presidiare lo studio e vi faccio fare un viaggio. Oggi Van Loon va davvero in una parte lontanissima rispetto a Bologna. Andiamo in Argentina davvero, è la prima volta che parliamo in particolare dell'Argentina, e lo facciamo tramite un'intervista che ho realizzato a giugno del 2019 a Aleandra Dandan, che è la responsabile dei contenuti del Museo dell'ESMA. Che cos'è l'ESMA? Ce lo racconta lei in questa intervista, in cui la traduzione di simultanea è di Manuela Loi. Per entrare nelle ambientazioni argentine a noi davvero molto care, ho scelto la voce dell'Argentina, la voce più importante, la voce più famosa. Una donna, un'attivista, una cantante folk. Noi non potevamo cominciare questa puntata che con Todo Cambia di Mercedes Sosa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como E sulle note di Mercedes Sosa torniamo su Radio Città Fujiko. Questa è Van Loon della vostra mezz'ora di storia. Vi ricordo che il podcast di questa puntata lo potete riascoltare da lunedì su www.radiovanloon.info. Ci ascoltiamo l'intervista a Aleandra Dandan e buon ascolto. Senti, io volevo cominciare subito perché le questioni sono moltissime, siamo veramente molto curiosi di sapere che cos'è l'ESMA e di conoscere la storia di Buenos Aires e dell'Argentina, perché io ti chiederei subito che cos'è, anzi che cos'era l'ESMA prima di diventare museo. Bueno, la ESMA era uno de los 700 centros clandestinos de detención que estuvo mi país durante la dictadura militar. Esto es un periodo que se extendió entre 1976 y 1983, un periodo durante el cual hubo una dictadura apoyada por sectores civiles y pedida por sectores civiles de la población, en la que se instauró lo que nosotros decimos terrorismo de Estado. L'ESMA era uno dei 700 centri clandestini esistenti in Argentina durante la dittatura, che si estese dal 1976 al 1983, un periodo nel quale questa dittatura venne appoggiata anche dalle parti civili, e che llevó adelante una politica di terrorismo e che insomma sviluppò una politica di terrorismo di Stato, del terrore, una politica del terrore. Sì, lo che queremos decir con terrorismo de Estado es que utilizó todas las herramientas del Estado, la burocracia del Estado, al margen y los recursos humanos y económicos del Estado para perseguir a los oponentes políticos del régimen de forma ilegal y clandestina y impartir el terror sobre toda la población. Dicevamo, il terrorismo di Stato che utilizza tutti gli strumenti e le risorse economiche per perseguitare insomma gli studenti politici e instaurare quello che è il terrorismo in tutta la popolazione civile. Bien, entonces, pero finalmente, ¿qué es la ESMA, no? ¿Qué es este centro clandestino de detención? ¿Qué cosa es la ESMA? ¿Qué cosa es este centro clandestino? En la ESMA estuvieron detenidos alrededor de 5.000 hombres y mujeres. Sí, vennero rinchiusi più o meno 5.000 uomini e donne. Ellos eran militantes políticos, que eran militantes políticos, pero que eran también no militantes políticos. Militantes y no militantes políticos. Organizaciones armadas y no armadas. Organizaciones armadas y no armadas. Religiosas, religiosos. Hombres de religión y donne de religión. Estudiantes. Studenti, ancianos, anziani, niños, bambini e bambine, y embarazadas, e donne incinte. E nella ESMA se los secuestró, se los torturó. Nella ESMA vennero sequestrati, torturati. También en la ESMA se los encaminó hacia lo que llamamos vuelos de la muerte. Okay. E da lì vennero avviati verso quelli che sono conosciuti come i voli della morte. Allí en uno de los espacios, en el sótano, se los bajaba de capucha, que era donde estaban detenidos. Okay. Quindi venivano portati giù in una cantina, incappucciati. Y se los bajaba hacia el sótano, que era este lugar de donde se los preparaba para los vuelos, ahí se les inyectaba una droga que era llamada pentonaval, pentotal. In queste cantine venivano sedati con un medicinale conosciuto come pentotal. Que le anestetizaba. Sí, que los dejaba medio somnolientos. Sí, y dejaba un poco semi-inconscientes. Y desde ahí los hacían subir a camiones. Y de esos camiones los subían después a los aviones para arrojarlos vivos al mar. Sí, da qui venivano fatti salire su dei camion che li portavano a dove c'erano questi aerei dai quali venivano buttati vivi in mezzo al mare. Sí. Lo que decimos es que en realidad la ESMA es un centro clandestino que había sido fue desde comienzos de siglo escuela para oficiales y suboficiales, un enorme predio de 17 hectáreas. Sí, inicialmente era una escuela militar para oficiales y sotoficiales. Dentro de este gran predio, uno de los edificios, la casa de los oficiales, que es donde dormían los oficiales y los maestros. Qui dentro c'erano anche le case degli ufficiali dove dormivano gli ufficiali maestri della scuola. En este casino de oficiales, a partir del 76, ocurren dos cosas: se monta el centro clandestino, pero además dal 76 viene istituito il centro clandestino, mientras todavía dormían los oficiales y los... E quindi convivono le due realtà, di centro clandestino di tortura e di alloggi per gli ufficiali. Dos cosas malas. Esta realidad de convivir con la escuela también siguió funcionando durante la dictadura con todo el predio. El predio siguió funcionando como escuela para estudiantes, mientras en una esquina y bajo un cartel que decía zona restringida funcionaba el centro clandestino. Quindi durante tutta la dittatura, per tutta la dittatura argentina, funzionò questa doppia identità della scuola, quindi scuola per gli ufficiali e centro di tortura clandestina, che insomma era relegato a un angolo con un cartello zona ristretta, zona proibita. Y la otra característica importante es que todo este predio estaba en una, sobre una avenida, sobre una de las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires. Okay. Esta estructura sorgeva nei pressi de una de las principales vías de la ciudad de Buenos Aires. Por eso decimos siempre que era un sistema clandestino, pero no del todo, que permitía como infundir il terrore in questa misma visibilità. Okay. No? Quindi era clandestino, ma relativamente clandestino, perché comunque era piuttosto visibile e attraverso questo si cercava di infondere nella popolazione quello che era il terrore. Dal 1986 la dittatura di Videla finisce in Argentina e torna alla democrazia. Aleandra, ci racconti che cos'è adesso l'ESMA? Puedo hacer una aclaración sobre esto que decías antes. Fare un piccolo chiarimento su quello che no, una prima. Dos cosas. Para mí es el disciplinamiento sobre la sociedad, me parece que esa es una palabra. Sí, el tentativo de disciplinar la sociedad. Como estos monumentos del terror, ¿no? Como un monumento del terror. Y después, vinculado a esta segunda pregunta, yo te podría decir hoy la ex ESMA, después de un largo proceso que tiene que ver con las demandas de los distintos momentos, hoy es un museo. L'ex ESMA, dopo insomma tutte le vicissitudini e tutti i diversi momenti, al giorno d'oggi è un museo. Sí, que todavía no sabe si es un museo o es un sitio de memoria. Nosotros nos llamamos oficialmente Museo Sitio de Memoria, Ex Centro de Detención y Exterminio, pero tenemos... un centro ambivalente a metà fra un museo e un centro della memoria, perché come vos sos historiadora sabes che hay como una discussione, no, entre los historiadores acerca de cuál es este lugar que tiene que tener, que, cuál es la función de un museo y cuál es el sitio de memoria. Tu come storica sai bene che esiste questa discussione fra cosa sia un museo e quale debba essere invece un centro della memoria. Pero el principal, digamos, función de este lugar que hoy se puede visitar está se puede visitar, digamos, es un lugar de acceso público. Hoy podemos ir, se abrió para que toda la población pueda ir a recorrer este lugar. Ok, al giorno d'oggi comunque la funzione principale di questo luogo è essere un luogo pubblico dove chiunque può accedere e chiunque può visitare. Nosotros no tenemos nada de lo que pasó allá, no tenemos objetos, no dejaron, la Armada se retiró de este lugar en el año 2004, muy lentamente hacia el 2007 y no dejó nada y es más, destruyó todas las pruebas de lo que habían sido el centro clandestino. Allora, all'interno del museo non esistono oggetti relativi a quel periodo, è stato distrutto tutto perché comunque dal 2004 al 2007 è stato smantellato il centro come scuola degli ufficiali. E quindi insomma non ci sono concretamente degli oggetti legati a quel periodo. Pero lo que tenemos, como lo que transformamos en valor de alguna forma, lo que son algunas cosas, ¿no? Por un lado, el edificio, que es prueba judicial, porque los juicios a los militares continúan en nuestro país, y entonces eso hace que la historia siga viva. Ok, quindi l'edificio di per sé è comunque considerato una prova giudiziaria perché i giudizi sono ancora in atto al giorno d'oggi. Y después la otra cosa que tenemos como valor testimonial museológico incluso e histórico son los testimonios de los sobrevivientes. Un'altra questione del valore e dell'importanza del centro sono proprio le testimonianze dei sopravvissuti. 200-300 sobrevivientes de este campo clandestino que durante años, desde el año 83 e incluso ya durante la dictadura, fueron contando qué fue pasando qué le fue pasando a ellos en este lugar. Sí, son más o menos 200 personas que a partir del 1983, después de la cauta de la dictadura, han raccontato y continúan a raccontar la loro experiencia al interno del centro clandestino. Y la elección fue elegir lo que estos sobrevivientes dijeron en los juicios, no en los libros, no en el cine, no en las películas, sino en la instancia del ritual de juicio que la justicia después convierte en verdad jurídica. Quindi diciamo che il loro lavoro, la loro sfida è quella di scegliere che cosa quello che hanno detto queste persone durante il loro giudizio, durante il processo, quindi scegliere quale parole utilizzare per tramandare la memoria del luogo. Sì, che la giustizia convierte in verità giuridica. Sì, cioè quello che appunto la giustizia trasforma in una verità. ti ho domandato che cos'era l'ESMA, ti ho domandato che cos'è l'ESMA, ma qual è il futuro dell'ESMA? Está bueno, yo quería responderte eso al comienzo de la segunda respuesta. Quindi volevo rispondere a questa domanda all'inizio della seconda risposta. Porque me parece que el objetivo de todo esto finalmente es contribuir, nosotros decimos al nunca más y hay otra cosa. Ok, quindi l'obiettivo è quello di contribuire a quello che loro chiamano il mai più. Y además, digamos, a contribuir a que esta sociedad de alguna forma a la que le habla el centro clandestino se sienta, no sienta a las víctimas del terrorismo de Estado como un otro, como parte de una guerra. Quindi un altro degli obiettivi è quello di fare in modo che la società civile non senta le vittime, le ex vittime di questa dittatura come qualcosa di estraneo, come un altro, sino che realmente contribuya a hacer entender que estos mecanismos tuvieron como efecto hacer víctimas a toda la sociedad. Anzi, al contrario, far capire che questo tipo di strategie trasforma in vittima a chiunque, tutti possono essere vittime. Allora, entonces, todos los dispositivos de alguna forma lo que permite, la propuesta es que atraviesen una experiencia, ¿no? Que la gente viene al espacio para conocer a través del cuerpo, ¿no? De la racionalidad, pero también de las sensaciones, de lo que pasa ahí adentro y demás, qué era ese lugar. Quindi la loro proposta es que chi visita el museo senta il luogo non solo insomma attraverso il corpo, attraverso tutto il corpo, quindi un'esperienza completa. Corporale, sta preparando corporale, sì. Però lo interessante è che quando una vez che le persone llegan, empiezan, yo digo, a activar mecanismos de memoria que les permite hacerse, yo digo, filiarse con la tragedia. Quindi insomma, entrando al museo, entrando in questo luogo, nelle persone che visitano si attiva una specie memoria, di memoria, insomma filiazione della memoria. Sì, entonces hablan de mi primo del primo del primo. Okay. Iniziano a ricordare esperienze personali. O el vecino, o el portero, no. Digamos. A mí me parece que es un escenario que permite, de alguna forma, activar casi teatralmente la posibilidad de pensarse como parte de una sociedad, de un colectivo que estuvo en este lugar, ¿no? Mirado desde este lugar. Quindi insomma attiva la memoria e riesce insomma a far sentire le persone come parte di una collettività. Ahora, el problema, digo, para nosotros uno de los elementos fundamentales es que el pasado no es pasado, sino que es presente. Quindi il problema più grande non è che il passato non è solo passato, ma è il presente. Entonces, quindi las personas que trabajamos ahí recibimos todo el tiempo preguntas que llegan desde este presente. Quindi noi che lavoriamo lì riceviamo domande che arrivano dal presente. Si ahora, por ejemplo, si está en discusión si hay una discusión en mi país acerca de si los perpetradores tienen que seguir detenidos o como ya son viejitos tienen que ir a su domicilio. Quindi attualmente esiste un dibattito se insomma, i carnefici debbano essere ancora sottoposti a giudizio o, dato che si tratta di persone anziane di una certa età, debbano invece essere liberati. Con il movimento de mujeres empezaron también nuevas preguntas. E quindi anche attraverso il movimento femminista sono nate, sono sorte delle nuove domande. Che era, qual è il lugar delle mujeres in este guion, in este lugar? Quindi qual è il ruolo delle donne in questa sceneggiatura, in questo copione? A proposito di questo, in ultimissima battuta, siccome a noi di Vallun piace parlare di storia sicuramente, ma siamo molto attenti anche ai movimenti attuali, sappiamo, seguiamo e siamo molto attenti alla lotta femminista argentina, e tu mi hai raccontato fuori microfono che c'è una mostra temporanea all'ESMA che probabilmente, ma poi ve ne daremo informazioni se sarà, arriverà forse anche a Bologna. Qual è la connessione, se c'è una connessione, tra la storia che ci hai raccontato tu adesso e il movimento femminista? Bueno, yo les decía recién, lo que nos empezó a pasar a nosotros es que la calle, y nos pasa con este tema y otros, permea las paredes del edificio. Quindi quello che succede lì dentro è che l'esteriorità, la strada, insomma le pareti di questo luogo sono permeate di strada, di gente, di quello sí. Che succede fuori. Entonces, cuando con el avance del movimiento feminista en las calles empiezan a aparecer preguntas en los visitantes, pero también en las trabajadoras y en los trabajadores sí. Acerca de cuál era la historia que nosotros estamos ¿cuál era la historia que nosotros estábamos contando en ese lugar y cuál es el lugar de las mujeres en esta historia? Quindi grazie insomma, al svilupparsi, all'avanzare dei movimenti femministi, ovviamente sono arrivati insomma, alle loro orecchie domande da parte dei visitatori che avevano a che vedere con che cosa è successo, ma soprattutto che ruolo hanno, che cosa è successo alle donne all'interno di questa storia, di questo contesto. Dos cosas. Una es que a los trabajadores del museo, a las trabajadoras del museo y a los trabajadores del museo le preguntaban cuando ellos hacían y ellas hacían la explicación, pero la hacíamos siempre en masculino, okay, porque una cosa che succedeva è che spesso durante le visite guidate la domanda più frequente ai lavoratori e alle lavoratrici era perché usassero sempre solo il maschile. Esatto, no? Acá no pasaron mujeres, le preguntaban. Sí, quindi diciamo, come non ci sono state donne qui dentro. Y entonces esto empezó a, las guías empezaron también a pensar qué pasaba con este guión. Y también periodistas, especialistas, cuando venían, nos empezaban a hacer esta misma pregunta, porque aparecía como esta omisión en el guión. Uh-huh. Y empezamos a revisar, durante un año estuvimos mirando nosotras mismas, que habíamos tenido incluso yo misma poca trayectoria en el movimiento de mujeres, a tratar de pensar los cruces dentro, por un lado, del movimiento de derechos humanos y el movimiento de mujeres. ¿Qué había pasado? Que esta omisión no es solo nuestra y actual, sino que es histórica. Ok, quindi insomma, hanno iniziato anche giornalisti, professionisti a farsi questa domanda, per cui i lavoratori e le lavoratrici del museo, dell'ESMA hanno insomma iniziato a vedere le cose da un'altra punta di vista, perché si sono accorte che c'era stata questa omissione proprio sul ruolo delle donne all'interno di questo racconto, insomma non esistevano le donne all'interno di questa narrativa, quindi hanno iniziato a... incluso del movimento dei diritti umani che tampoco la tenía sí, come okay, quindi, influida. Sì, addirittura il movimento dei diritti umani non contemplava la presenza o il punto di vista delle donne. Y, pero lo que fue más importante es que lo que hicimos fue mirar con los ojos de hoy, por ejemplo, con las consignas de la calle, ni una menos la sororidad y vivas nos queremos, no, como vivas nos queremos, con esos lentes de las consignas de la calle, mirar lo que sucedió ahí adentro 40 años atrás. Ok, quindi grazie anche all'aiuto e al suggerimento di molti movimenti come las consignas, sí, sí. Como categorías, sí, ¿no? Sí, sí. Casi como si fueran categorías académicas. A ver, la sororidad, ¿qué es la sororidad en la ESMA? ¿Cómo fue la relación y el rapporto entre mujeres en la condición de mujeres estando ahí adentro? Hanno iniziato insomma, a interpretare queste categorie grazie alla sorellanza, che è un movimento, immagino, quindi, e a chiedersi che cos'è stata la sorellanza là dentro ai tempi, insomma, Vivas nos queremos. ¿Qué significaba el cuidarse, los cuidados entre mujeres mientras okay. estaban ahí? Quindi anche grazie al movimento Viva Nos Queremos, cioè le rivogliamo vive, hanno iniziato anche a chiedersi che cos'era, che cosa voleva dire stare lì dentro e prendersi cura l'una dell'altra. Bien. Ma y además todo el capítulo que tiene que ver con las torturas y los padecimientos en términos de ser mujeres. Ahora, e quindi anche tutto ciò che ha a che vedere con le torture e con le sofferenze nell'essere donne. Una de las cosas que aprendimos inicialmente fue de parte de una sobreviviente lo siguiente. Quindi una delle prime cose che abbiamo capito grazie a una delle sopravvissute es que a nosotras no nos detenían ni nos secuestraban por ser mujeres. Quindi non ci arrestavano né ci sequestravano per il fatto di essere donne, sino por ser militantes políticas, no, per il fatto di essere militanti politiche. Entrábamos por la misma puerta que los hombres. Quindi si entrava, le donne entravano per la stessa porta, attraverso la stessa porta per la quale entravano gli uomini. Y luego tenían situaciones diferenciadas, hombres y mujeres, dentro del centro clandestino. Okay. Poi c'erano situazioni diverse tra uomini e donne all'interno del centro, ma por esta condición. Per questa condizione. Grazie ancora a Leandra Dandan e a Manuela Loi. Vi volevamo segnalare veramente un appuntamento, non lo facciamo da tanto, ma il 29, quindi venerdì prossimo, al VAG 61 c'è la presentazione dell'ultimo numero di Zapruder. Il numero è intitolato Stati di agitazione, territorio, autogoverno e confederalismo. E il 29 novembre alle 18.30 nella saletta del Centro di Documentazione dei Movimenti Lorusso Giuliani. Si parla appunto di questo numero, l'ultimo numero di Zapruder, con Tommaso Frangioni, che è uno dei curatori del numero, con Irene Fattacciu, Tullio Ottolini e Daniela Galier. Vi segnalo anche che nei due giorni successivi, quindi quel fine settimana, sempre a VAG, si tiene l'assemblea annuale di Storia in Movimento, dove si decideranno i tempi dei prossimi numeri di Zapruder. Le informazioni sono su www.storieinmovimento.org. Io direi che da Olga è tutto, una buonissima giornata, un buonissimo sabato e ciao a tutte e tutti. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Caminar en el mismo momento en la tierra en el que camina Doña Mercedes. Y me da mucha emoción. Es como mi mami, es como una inspiración de la tierra, de la fuerza de la mujer. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.